sera. Perché? Attento Lillo, buttaci la pasta che è pronta. Fammi vai. Oh, un piccione, fammi vai. Pronto, andare a lavorare. Andiamo da te. Senta. Ci mangi così? No, la dottoressa mi ha detto si prega di stare bene in forma, questo chilo alla volta. Ah, c'è del freschetto che sta girando. Cazzo che si muovi, buia. Io mi faccio buccio, non in camera mia, non in camera di noi. Sono il sanatore. E allora, là giù bagagli, ma non me ne ha fatti nulla. Ma chi te li ha messi? Ma quale sono? Quelli con la pompa, col motore fuori. E allora, certo. Quanto ti sono venuti? Un bel. Sono, invece di essere 9.000, sono da 10.000 acquisti. E sono a più. Ma di spesa, quanto hai speso? Cosa vuol dire? Non bere di là. Perché gli ho fatto venire da fuori. Che cazzo. Ma voleva un sacco di soldi e non mi piace neanche il motore. Ah, ma io mi ventilatore, cazzo la volta che ti dirà ma no, non faccio più. Ah, in un paio d'anni me ne esco. Non sento io, ero mesi, un paio d'anni ho finito. Adesso vediamo, il prossimo anno, magari mi metterò anche io, ma ne metto due, uno in corridoio che circola sia dal corridoio in tutta la stanza sia che arriva in sala. In sala ne ho uno da 12.000, in cucina ne ho uno da 9.000, in soggiorno ne ho uno da 9.000 e poi due da 10.000, uno in camera qua e uno in camera là. Cazzo ne vuoi? No, io se ne metto due e basta, cazzo, uno ne voglio mettere uno, non te l'ho detto, nel corridoio che circola sia nelle stanze e in sala, uno grosso e uno in cucina, che non che va in bianco perché batte il sole, c'è una vetrata e batte il sole qua. E io ho dovuto mettere uno in ogni stanza, perché le stanze c'hanno le porte e non è che circolano. Cazzo, io muro per le sue porte, la capisci? E purtroppo ho dovuto fare così, e me non si può avanti, Buonasera, birmano, come sta va? Buonasera, birmano, buon a te, avanti, signor Gianni, me che c'è... Vabbè, già mai compreso. Allora, ciao, buonasera, anche a Manuele e tutti gli altri amici che sono all'ascolto. Dai, sono andato adesso perché stavo canticchiando. E vi ascolto che mi sto affettando, dai. Ti stai affettando? Cosa hai detto? Che si sta affettando. Sì, si sta annoiando. Manuele, ci ascolti? Sì, gli ho detto, aspetta un attimo che sto affettando, vi ascolto. Da te già sai affettare. Occhio mio. Vabbè Gianni, ha sfariato di sì. No, stavo mandando la risposta di un messaggio, sinceramente. Già da te. Oh, vabbè, là. Stavo ascoltando una canzone che ho fatto con una tipa in duetto. E lei che sono le campenne? È una che canta con me. Oh, ti fa di compagnia? Tutti quanti lo faccio i due minuti, va bene. Sto cantando, vedi? Siete, me da voci? C'è la Chiara, molto potente. Sì, fate così. Fate così. Tutto con me. Oggi tocca a te, domani che tocca. No, non mi tocca tutti i dì. Ho detto dopo questa pizza a me, no, dopo che cantare. Così è. Andiamo. Due ci sono così, no. E buongiorno. quello perché la chiusa si è rimasta la rotella. Bisogna anche sottostare e cantare. Avanti, torre, torre, quello dei convenienti. Che cavolo, sono bruciato, ma lo frecco. E lo sai, Bidovino, Manuele, embriaco. Così è. Andiamo bene. Che maniera, se si se vi vendi, eh? E io la faccio l'ultima. Così è, Manuele. Non puoi rispondere che ho bocca piena. Niente, se deve andare a trovare. Aspetta che metto il telefono in carica. Un secondo solo, che se no pure trovo scarica. Ah, io me la giuglia pure ho carregata ansura. Ehi, già. Ecco, mi dai, ho messo il telefono in carica, che ce l'avevo a 16, se no stanotte che non lo devo usare, pure non posso usare. E stanotte c'ho le chat. Devo usare. E fai bene. E la notte ci abbiamo messo a 8, come lo facevamo noi 27, però è un po' diverso, ci sono le poltrone per sederti, tu ti siedi alle poltrone, parli con uno con l'altro, capito? Allora? No, dopo le 8 io vado, ricapito. Ah, io direi andare via dopo il mezzanotte. No, ce ne andiamo via sempre verso le 11 e mezza, così. A volte sì, a volte anche a mezzanotte, però poi io continuo perché non riesco a dormire presto io. Così. No, no, io... Ma casa a paura no, non va da nessun posto. Scendo a lui verso le 9 e mezza e poi... Vengo a prendere il televisore. Ah, ma io vado da nessuna parte, su internet vado, capito? Ah, no, io... Si incrociano i luci, così io da voi. Senta, mi attacca al tablet da voi, mi ci vuole incrociare il liscio. Addirittura, ma... Io sto anche durante il giorno mi ha attaccato. Sempre su internet sta? Sì, a vendendo, vendi, da voi verso la gettola, mi obbliga, mi ne bordi, non se la fai da vedere. Ah, vabbè... Quando ho tempo canto anche la mattina. Se non ho tempo, come questa mattina, ho fatto un bel roba. Che se vuole da vivo al macca a ritirare di là. Oh yeah! E' nella città di Lubria andare di là, ma è fuso. Dal giorno 3. Io a me me ne accreditano in banca direttamente. Sì, anche a me mi mettono in banca, però io preferisco avere liquidi, se devo andare in qualche parte dove non c'hanno il banco, ma ce l'hanno quasi tutti adesso, però c'è qualcuno per dire che non ce l'ha, capito? Tipo il mio meccanico non ne ha banco. No, io se ne faccio il capitano. Devo scendere a vedere se ha preso il semiasse, perché una sanchietta me lo devi piazzare. Allora, stai uscendo male, stai uscendo tutto a tratto, così. Porra, anche adesso? Adesso questo passaggio no. Ma so perché ero troppo lontano, vero? Ma adesso l'ha fatto. Fa Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Lei qualche strappo ha fatto. Ho abbassato il macchinino del microfono. Che apparecchio è questo? Il President. Sempre lui che fa il difetto. C'è qualche cosa per l'apparecchio. Ma c'è qualche componente che sta esaurendo. Oppure qualche problemino c'ha, perché lo fa ogni volta. Adesso era da molto, no, forse perché ho attaccato all'esito. O è cosa esterno? Fatto parlare. Lascia vedere se è dove. Ancora lo fa. No. Sicuramente è lui. Che ne comincia a cercarli. Sicuramente è lui. Adesso lo stava facendo di nuovo. E ho visto che mi ha dato avanti a giù cercando. Ciao, bravo. Ah? Di nuovo fa. Ma torna a parlare? Sì, no, è l'altro parlatelo. È qualche cosa da parecchio. Perché l'ha fatto anche adesso. Adesso ce l'hai staccato l'altro parlato se. Ce l'ho staccato. Sicuramente dopo le salvature che si sono staccate. Io mi aiuto in burla, ma la leggera, ma esce anche il lago. Mi ha messo un appolo e mi stava facendo sudare lui. Vuol dire che è pesante. Vuol dire che è pesante. Ma sai cosa sto bevendo io? Gatorade. Fanno sudare. Il Gatorade? Ma zucchero e acque. Senza zucchero. Aranciata però. Cosa d'aranciata però no, zucchero ne ha quasi zero. Pannelli turistici integrativi fanno male. Anche Red Bull, tutti quelli lì, dice che fanno male. Ma quello lì, l'integratore non fa male, perché a base d'aranciata, d'arancio, arancio, arancio proprio. E vabbè, magari tu vai a casa, tu vuoi, chi dà ragione, e buco da bere Gatorade. Quando c'è caldo asciutti, poi io soffro molto il caldo, sto meglio d'inverno, l'estate soffro. Io avevo la bestia brava per non sudare. Quella è l'abito dei bregoni, dei dolci già. Non sudare bevo quella. Perché sei bregoni. Sì, sei bregoni, yeah. Ma buona, io non l'ho mai gustata quella birra. Io ne prendo una dall'Italy che non costa tanto, forse un euro e qualcosa, però la lattina grande. Ed è quelle praticamente senza filtrare. Ed è un bel buono, però ti sconvolge, se ne bevi una lattina ti sconvolge. Ah, oh, già è buono, è buono. Tu hai preso quella rossa. No, no, l'ho presa dall'Italy, è un'altra birra, È tedesca come birra, questa che prendo io. Certo, avrebbe dato quella scura allora. Quella birra scura forse sì. No, c'è scritto non filtrata. Non filtrata. Non ti imbuffa, No, io prendo questa qua, c'è buona. È stumbrato. Ognuno c'è la sua birra. Tu dove che birra bevi? Sì, ciao. In frigo sono rimaste ancora due bottiglie di Becks. No, io bevo in chiusa. Quando vado nei locali chiedo sempre chiusa. Mi dicono Heineken è chiusa, eccetera. Io sempre chiusa. Io me l'hanno data, ha dato tre bottiglie, solo che è un po' di due voci. Già è buona quella birra. Vabbè, la birra è tutta buona, quando è fresca, anche quella più da prezzo, quando è fresca è buona, pure si va la bruciata, vero ma non è. Cos'è? Già, la stavo ascoltando. Ho detto che la birra, anche quella da prezzo, quando è fresca, va bene. Sì, va bene a un certo punto che birra bevi, perché se prendi birra che non va un cazzo, anche se fresca no, non dico. Io prendo quella dai 4,7 e massimo 5, perché ci sono quelle birre da 3,8 che non si vedrà un cazzo, ma li bevendo che va colorata. Questo bravo è l'apprezzo di quello che costava poco, eh. Quanto costa una lattina grande? La lattina grande viene sulle 65-70 centesimi. Io la pago quasi un euro, 95 centesimi, però quello che bevo io è molto buona. Te la voglio fare assaggiare, poi mi dici per due. Manda la foto, la lattina ce l'hai. Io ce l'ho. E poi manda la foto. Allo scala, lo sai che quella che mi hai dato è tuo, già il pesce è incinta. Tutti incinta sono. Avevo trovato il maschietto, vediamo se sono tutti finucchi. No, sono tutti incinta. Cazzo sia gli altri che avevo, tutti gravi di sono. Questo ti fa l'allevamento. Speriamo che nascano le caldaline. Cazzo, non li ho più visti, a proposito, non li ho più visti, no, che si danno in maniera di cazzo i cosi, no? buoni se la mangi. Cazzo, non la più vivi. Nella più pasta. Le domande si mangiano, i blecchi mulli, le schiacciate si vanno tutte pappate. Quello è tutti i pesci, se ne schiacci se ne mangiano, perché le schiacciate poveracce? Ah va, cazzo che me ne mangiano una marea, tutte attaccate allo vetro, poi mi intasa tutto il filtro. Se ne mangiano te lo blocca anche il motorista. E poi adesso dicevo, chi c'è le Germania? Come le schiaccio ce ne affondano, se ne mangiano i cosi, gli altri che ho preso. Quelli sono dei papponi, quelli vecchi buoni, mandano un bel. No, gli altri che ho preso. E quali? Quelli che c'è anche tu, metti cazzo di giapani. I corridora? I corridora, sei bravo. C'è il corridora che ha i cosi buoni. I buttia voglio offendere adesso, due buttia, dai buh, cazzo faccio l'acquario pieno, cazzo tutti i pesci minori, ui, devo prendere un'altra acqua di 500 litri io. Ah cosa, tanto qui non durano molto i buchi, capito? Non ti durano molto, non proprio pinnacciati, perché hanno poca vita, non so, col caldo si rimane tutti. Ma non durano molto, capito? Con il caldo, quando scalda l'acqua. Ah, d'inverno, ma d'inverno, d'estate, quando c'è molto caldo, aggiungili, io gli metto qualche cubetto di ghiaccio in mezzo ai filtri e lo faccio sciogliere, di modo che raffreddi l'acqua. Sì, già è fredda, già non è cagata, a 24 l'ho messo io. Ma d'estate sale anche a 30-35, tu non lo sai. Ma non è il termostato che la fa salire la temperatura interna che c'è nella casa. Ma non batte quella, a parte che non batte il sole nell'acquario. E cosa avete? È un gas. Ma in un angolo dove non c'è la finestra. Non avete un giorno, io non ho le case, il sole non viene, ci sono delle serate abbassate, pure c'è caldo lo stesso. No, è proprio il caldo, è la temperatura esterna che c'è, capito, che lo fa salire. L'abbassato non ha fatto nulla. Io l'anno scorso lo stesso, oppure andava lo stesso per cose del termostato, eppure non è successo nulla. Addirittura c'è gente che lo stacca ed è stato il termostato. Ah, ti piazzati. Non so piazzati. Vabbè, il termostato è arrivato a una temperatura, si dovrebbe bloccare. Se poi fa come il mio, che li ha tutti arrostiti, ha continuato a andare, e arrivi da 41 gradi. Tutti quanti fatti arrosto, avanti. È così. Noi siamo concentrati. Da state vuole staccato, anche se no si cucina arrosto. Ma io mi sono comprato tutte le mangime che c'era da mais. Ma io se non vedo mai. Cazzo, devo comprare Gesù, devo comprare io pure, che ne ho poco. Ma poi che fino a fine mese mi basta. E lo vendo io, ma poi 50% in più. Vai, vai! Ma io ho preso solo 3 e basta. E quanto era? 2,20 euro sembra lì. No, 3 euro e qualcosa. Si è già pagato 2,20 quando si è andato, che ti ha giunto, ho pagato 2,20 il cubetto. E è aumentato, si è tutto aumentato, cazzo, ma è? La carne che l'ha pagato un fegato al centro carni, lo pagavo 4,50, adesso costa 6,90 euro. Cazzo di aria, ma pare che cazzo mi devo mangiare i pesci, anche che da mangiare i pesci, Ma tu hai pesci, qualche pezzettino di pane, di briciole di pane, non ne dai? No, ne le do solo il suo mangimo, che cazzo le do con lo mare dopo? Io glielo do, è per non dare sempre la stessa cosa, no? Cioè io li ho levati a pane, mi ha pane grattugiato i pesci. No, già ne metto quello lì, se no devo che aggatta aggatta a fare, ma buffonetti, sì. Ma io ho il paniere dove metto il pane. Quando ci sono le briciole prendo, non è che lo compro apposta, le briciole che ci sono nel fondo prendo le do e si rimangono. Eh sì, e poi sa il video che ti ha mandato. Ma mi sembra che ci sono le fare in carica. No, no, adesso, il video ti ha mandato l'altro giorno, che mi ha mandato che stavano vendendo, che stavano regalando un acquario, ho visto il tuo video. Ma stavo nel tuo acquario? Hai visto? Sì, l'ho visto. Ma lo conosco già sto acquario io, non è che... ho visto che ci sono il Black Moon in più. Pensavo che mi facessi bere cardinaline, invece non ce l'era. No, la giurisci, comunque le voglio comprare, ma non cazzo minori come ti danno un miliardi da riso. A me mi ha detto che al massimo ti prendono 2 centimetri, non crescono di più, rimangono così, poi ci sono i gambi che sono diversi, sono trasparenti e quindi sono grandi proprio come i gambi che compri. Cazzo, questo è troppo male, no, ma come li abbiamo presi però... piccole come se cazzo si era dati. E lui ci ha dato i figli, non ci dava i genitori, no? Ci ha dato i figli che sono nati, è normale, poi diventano un po' più grandi, ma non è che crescano di tanto. Che cazzo, quello che ti ho fatto vedere io era già la misura sua, 2,5 centimetri era. C'era il giallo, il blu e il cazzo era nero, mi pare, calcolo di era. C'era il verde. Verde, giallo, no, forse era verde, sì, forse era verde, verde, giallo e blu era. Quindi ti manca, c'è il rosso, quello screziato, rosso e bianco, ce ne sono diversi tipi. Comunque a pedale già li voglio prendere, però cazzo se si rimane mi dico con cazzo di pesci. Quelli che c'erano qui prima non se li mangiavano, se ti sono durati è perché non se li mangiavano, e dopo io te l'ho detto, quando tu continui a mettere razze di pesci, poi va a finire che rubi di tutta quanta l'ambiente naturale che c'è, perché magari ci sono dei pesci che si mangiano uno con l'altro, oppure mangiano la roba che c'è da prima, e così, come tu aggiungi la roba, devi stare attento a cosa metti, perché secondo che pesci metti si mangiano in tutto. No, ma non rimango più nuda, boh, basta, non ne metto più niente, rimangono quelli, boh, fino a quando crepo rimangono quelli. E le volte mi dici, sono bugliato, vedi, dico, pareci tutto lo zoo. Sì, domani mattina devo andare a Porto Torres a prendere dei modellismi, capito? Perché sto facendo collezione di modellismi e devo andare a Porto Torres, però passo lì a fianco ma non mi fermo. Modellini? Modellismo di macchine, la 500 d'epoca, 500, 600. Si chiamano modellini, non modellismi. Modellismo è la parola che uno fa di tanti modellini, è modellismo. E modellismi sto facendo, io ne ho una parete e cazzo ci saranno 200 macchinette. Ogni tanto di miliardi, io ce l'ho 600, c'ho le moto, le R600, le R1000 della Yamaha, c'ho le Giulia, neanche il... E la 600 mi manca, infatti sto cercando su Amazon, l'ho trovata, sulle 20 euro veniva, adesso vediamo un po', ma la faccio spedire. Io ho la Ferrari invece. Sì, ma quella non so d'epoca già, non lo so. Ma curie, ho la Ferrari da corsa, con il motore a scoppio. E invece questo amico mio si è fatto la 500 Abarth, pezzo per pezzo, in edicola, ce l'ha costruita tutta. Quelle sono belle. Che cosa si può mettere cosa da 500 Abarth? Però, ma lo è grande, non è di quelle piccoline, è di quelle grandi. Ma lo sai, andando a finire, lo sai le denari che si muore, oh yeah. Lo so, e poi è una paranoia, devi montarla, farla, lui. Lui c'ha pazienza perché gli piace, lui fa modellismo, infatti a me quando era il mio compleanno mi regalava sempre un modellino di macchina, sempre, ogni compleanno mi regalava questo. Cazzo, mi avrà detto, ma adesso ha preso quello del Galeone. Cazzo, andate a finirlo, e poi che hai preso, cazzo, roba di 30 euro a finirlo. bello il Gaione, se bene è bello, No, no, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Ce l'hai tu? No, io non ce l'ho, il mio fratello, quello che è morto, cazzo. Adesso ce l'ha il figlio. Capito. Vabbè. Comunque ti vado di bilan macchini, dai, su quello che va a calare la bottella da buio. Adesso mi vedo questo pallino qua, adesso devo andare, è uno che lo sta lì, è uno di. In caserma devo andare, è uno, una guardia di finanza, è questo qua. E devo andare in caserma lì a Porto Torres, a caserma di Porto Torres. Perché lui sta facendo collezione di trenini, cioè cazzo che belli, cazzo sì. Io le vedo queste cose qua, mi sa il pallino di prenderli. Io ti dico, ho avuto la pista delle vacche, i trenini, tutto di più. Il treno ci avevo tutto con la ferrovia. Bello, bello. Quando ero un ragazzo però dai, adesso non più. Adesso c'ho una mensola dove metto queste macchinine e queste moto che ho comprato. Le ho comprate fuori continente perché qua non ne ho mai visto così belle. La Sincetta è bellissima, proprio apre tutto il cofano e dietro gli sportelli. La Sincetta è bella, infatti adesso sto facendo tutta la. Allora, tutta la. Devo fare tutta la correzione delle. Fiat. Adesso ho 4-500, però una diversa dall'altra con la tettuccio e tutto quanto. C'è gialla, blu, rossa e bianca. E, però adesso voglio fare quella voglio trovare la 600, l'altra come cavolo si chiama, l'850. Allora su internet c'è un negozio a Napoli che vendono tu qualsiasi macchina, tu lì ce l'hanno, qualsiasi macchina, e uno dice te ma questa non ce l'hai, che te l'ha detto, ne ho tre di tre colori diversi. Lo so, sono belli comunque, per questa è la misura, è da 1 a 8 però la misura. Allora la 600.000 è più grande dei modellini normali, rimane più massiccia, capito? E allora è quella da 1 a 14, sono quelli più grandi. Ah, ma è bella. E vabbè, io la uso come soprammobile, non è che abbia proprio la passione, però già ne ho. Avanti tu. Già, io chiudo, non prendo passi di lì. Ci risentiamo alle prossime, ok? Ciao Gianni, ciao Manuele, a risentirci alle prossime. Ciao Otto, ciao, buonasera, ci sentiamo. Avanti, la. Ciao Tom, comunque dentro di buon tutto, dai, ce la riascoltiamo. Hai capito già? No, io non è che voglio faccio la correzione, mi piace, voglio farmi adesso questa correzione qui della Fiat solo. Capito? La 126, quando arrivo io ho fatto tutto quel modellismo della Fiat e poi parto, non è che. E poi voglio farmi quelle delle Vespe. A me piacciono anche quelle dei carabinieri, della polizia. Mi piacevano, quando ero più ragazzo, poi quando ero più giovane, mi piacevano anche quelle. E no, a me facevo, ce l'ho. Poi te la mando le foto, dai, che le faccio vedere. E tanto se ti devo portare giù il cane, Manuele, che è venuta ora, dai. E allora, ci sentiamo, dai, ciao già, alla prossima. Ciao.